ti voglio dare. Uno alla mia mamma, un altro al mio papà, 500 alla mia bella e parto via soldà. Ciao, ciao, ciao, Martina bella, ciao, che prima di partire un bacio ti voglio dare. Ciao, ciao, ciao, Martina bella, ciao, che prima di partire un bacio ti voglio dare. Che vago io a soldato, non vago più alla morte, se Dio mi dà la sorte, aspetto di tornare. Ciao, ciao, ciao, Martina bella, ciao, che prima di partire un bacio ti voglio dare. Ciao, ciao, ciao, Martina bella, ciao, che prima di partire un bacio ti voglio dare. La vita di un soldato, la sembra vita